La degustazione di stasera verterà su tre vini bianchi. Il motivo per cui ho scelto i vini bianchi è perché ci sono dei miti falsi sui vini bianchi che sarebbe ora di sfatare. Il vino bianco è sempre stato concepito come un vino o da aperitivo o da merenda, come si dice in Centro Italia, in certe zone. Oppure, un altro mito sul vino bianco è quello del che fa venire il mal di testa. Un altro mito ancora è quello che il vino bianco va bevuto nell'annata di uscita, perché non invecchia. Tutte queste sono, non dico baggianate, perché non voglio insultare nessuno, però sono cose che tranquillamente si possono confutare, perché abbiamo dei vini bianchi che possono resistere 15-20 anni, abbiamo dei vini bianchi con gradazioni alcoliche tali che possono sorreggere tranquillamente un pasto intero, anche la carne, e ci sono dei vini bianchi che non sono da pesce, perché questo è un altro credo del mondo del vino: il vino bianco per il pesce è nulla di più, e invece sono da appunto primi importanti, quindi paste fatte in casa e con ripieni importanti anche di carne. E come ho detto all'inizio, soprattutto il mito più falso e più sbagliato sul vino bianco: il vino bianco può resistere nel tempo, non sicuramente quanto il vino rosso, ma quasi. I due vini che ho scelto come inizio sono due vini che ci aiutano proprio in questa dissertazione. Un vino è il Fiobbo 2006 dell'azienda Aurora, dovreste averlo a sinistra, mentre l'altro, per una questione politica quantomeno, sì, mentre l'altro è un 2002 di Franciacorta, dell'azienda Il Pendio. Ce l'avete entrambi? Tutti? Aspettiamo un attimo allora. Visto che... arrivano. i bicchieri arrivano di là. Portiamo la boccia. Beh, intanto potete tranquillamente mettere il naso dentro il bicchiere, sia col primo che col secondo, è un'operazione che si può fare. Ah, un'altra credenza completamente sbagliata sul vino bianco è che non si ha da mischiare, nel senso che se si beve vino bianco poi si va avanti col bianco, se si beve il vino rosso poi non si può ritornare al bianco. No, il vino basta un pezzo di pane, si può bere tranquillamente vino rosso, vino bianco, vino bianco, vino rosso, senza alcun problema. Il fatto del... cioè, l'abuso non lo consiglio a nessuno, ma... come? anche la questione del mal di testa, poi ci torneremo senza problemi. Ovviamente nei vini bianchi c'è un utilizzo di anidride solforosa o solfiti, quello che appare sempre o quasi sempre, pochissimi produttori non utilizzano solfiti, un paio, non di più, in etichetta, in retroetichetta. È vero che c'è un utilizzo di solfiti un attimo più spinto rispetto ai vini rossi, per una questione di preservazione del colore. Il colore del vino bianco deperisce molto più velocemente di quello del vino rosso. Ma se l'azienda lavora in maniera seria, e le due che abbiamo scelto stasera tendenzialmente lavorano in maniera seria, il mal di testa non dovrebbe venire. L'anidride solforosa viene aggiunta quasi sempre ai vini in forma gassosa, basta tenere i vini nel bicchiere un attimo e l'anidride se ne va. Quindi il mal di testa o state bevendo male o avete bevuto troppo. Quindi non date colpa al vino, ok? Cominciamo la degustazione, se tutti hanno i due vini nel bicchiere, mettendo il naso nel primo bicchiere e mettendo il naso 3 secondi dopo nel secondo bicchiere. Il giochino su questi due vini è presto detto. Vi comunico una cosa che avrei dovuto dire all'inizio. Non mi piacciono le lezioni, non mi ritengo un professore del vino, quindi fra 5 minuti tendenzialmente smetterò di parlare io e farò parlare voi, nel senso che non ho la scienza innata e non ho verità sul vino. Ognuno ci può sentire quello che vuole. C'è un'oggettività del vino che andremo a cercare di cogliere, ma poi c'è una soggettività che subentra immediatamente dopo, e quella la dovete esternare voi parlando. Mi dicono che ci può essere qualche problema col microfono, venite fuori, vi alzate, parlate del vino senza nessuna remora, d'accordo? Ok. Il giochino sui primi due vini, ripeto, è presto detto. Un primo vino è dell'annata 2006, il secondo vino è dell'annata 2002. Quindi abbiamo di fronte un vino giovane che comincia ad esprimere adesso tutto il suo potenziale, ma che andrà avanti ad esprimere il suo potenziale per anni, e un vino che invece ha fatto affinamento in legno, cosa che non ha fatto il primo, e che comincia ad avere un equilibrio completamente diverso rispetto al primo, perché la presenza del legno infonde sensazioni odorose, olfattive, di spezie dolci, che tendenzialmente il vino che fa passaggio in acciaio non ha, e quindi ha un equilibrio completamente diverso, ma comunque anche lui può avere una longevità e una vita consistente. Come facciamo a capire se un vino può durare nel tempo? Quali sono i criteri che dobbiamo utilizzare per capire se un vino è arrivato, è pronto da bere, in gergo si dice maturo, oppure se ha delle chance di sopravvivenza di anni, lustri, e non parliamo di decenni? Il vino è un alimento e quindi si conserva tendenzialmente come si conservano gli alimenti. Domanda: come si conservano gli alimenti? Non dove, come, cosa utilizzate per conservarli, che cosa si utilizza per conservare gli alimenti? Si mettono sotto aceto, si mettono sotto sale, si mettono sotto spirito. Okay? L'olio nel vino cerchiamo di dimenticarlo perché viene fuori la porcheria. Quindi se un vino ha presente al proprio interno alcune di queste caratteristiche, alcol, sali, acidi, non parliamo qui di tannini perché i vini bianchi tannini non ne hanno, queste tre caratteristiche, se presenti in una certa quantità e ben amalgamate fra di loro, ovviamente, consentono al vino di sopravvivere. Assaggiamo il primo vino bianco. Dopo si berrà un altro vino, ma dopo. Sono due vini. Sì. Sono due vini. Il primo vino che stiamo degustando è il Fiobbo Pecorino di Aurora, Marche. Marche. Cos'hai nel panino? Ottimo per la degustazione. Allora, tutti avete assaggiato il primo vino? Di quelle tre cose che vi ho detto prima, acidità, sapidità e alcol, che cosa riscontrate in questo vino? Poi? Alcol è stato risposto, alcol. Poi? Quindi voi sentite il sale alla fine. Attenzione, qualcuno mi dice che fa salivare. Secondo voi la sapidità fa salivare o l'acidità fa salivare? E l'acidità. Quando noi, come sto facendo adesso io, dopo aver bevuto un sorso di vino, abbiamo la tendenza a creare saliva dal fondo della bocca fino all'ingresso, vuol dire che un vino ha parecchia acidità. Questa è la caratteristica per i vini bianchi, ma anche per i vini rossi, ma per i vini bianchi, perché quelli che stiamo degustando adesso sono questi, fondamentale. Questo vino con questa acidità è un 2006, ci garantisce, c'è anche sapidità e c'è alcol, adesso io non ho guardato la bottiglia, ma secondo me siamo sui 14, ci garantisce una tenuta nel tempo clamorosa. Secondo voi attualmente questo è un vino equilibrato? Mi spiego. L'equilibrio è data da due grandezze. La morbidezza da un lato e in gergo si chiamano durezze, ma poi vi racconto un paio di cose. Sali e acidi, mettiamola così. Si sentono di più le morbidezze, fra parentesi, burro, o si sentono di più gli acidi e i sali, fra parentesi, limone. Ok, quindi è un vino che ha un certo equilibrio sbilanciato a favore di quelle che si chiamano durezze. Tutti i vini vanno analizzati in questa ottica, morbidezze e durezze. Morbidezze e durezze sono due parole che coloro che si occupano di vino, i sommelier fondamentalmente, usano tantissimo. Il titolo iniziale di questa degustazione, che poi spero diventi una chiacchierata e non, ripeto, una lezione, era le parole del vino perché i vini bianchi sono gialli. Parole del vino perché fra di voi, quando siete a tavola, non dite un vino duro, è un vino morbido, è un vino equilibrato. Dite è buono, mi piace, questo mi fa schifo, giusto? E quindi quello che dovremmo cercare di fare è cercare di fissare un paio di parole tutti assieme per capirci, perché se qualcuno di voi mi dice che un vino è rotondo, io non so cosa significa. Se io vi dico che un vino è acido, magari la parola non è particolarmente bella per un vino, ma ci capiamo un attimo di più, ok? Quindi fissiamo queste due cose. L'altra cosa, perché i vini bianchi sono gialli? Perché non chiamiamo i vini, cioè non impariamo a chiamare le cose con la realtà che hanno? Perché tutti noi non cominciamo a dire che i vini gialli sono gialli? Il vino rosso non lo chiamiamo rosa. Quindi anche questo è un piccolo sforzo da qui in avanti. I vini gialli sono gialli, non porta sfiga il giallo, che qualcuno dica una cosa del genere. Per cui chiamiamoli gialli. Giallo paglierino, giallo dorato, giallo verdolino, giallo ambrato, dicono anche, però il giallo ambrato secondo me non esiste. Ma sono gialli, ok? Senza nessuna paura. Assaggiamo il secondo vino.